Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi raccontiamo la storia di Cenerentola, o meglio, vi raccontiamo di una Cenerentola dei nostri giorni, una ragazza americana che ha dato vita ai suoi sogni, che è stata protagonista di una incredibile scalata imprenditoriale, una donna molto fantasiosa che ha creato un impero dal nulla. Lasciamo che si presenti lei. My name is Joy Mangano. Mi chiamo Joy Mangano, sono un'inventrice e una product designer. Sono una celebrità della TV, grazie ai miei prodotti nell'industria della distribuzione elettronica. Sono un'imprenditrice e oltre a tutto questo sono una madre, parte di una famiglia meravigliosa che fa parte di un meraviglioso business. Ecco come si descrive Joy Mangano, la nostra protagonista. Ma però come ha fatto a diventare un'inventrice, un'imprenditrice? Diciamo che aveva la creatività nel DNA. È perché lei è figlia di due italo-americani, nasce a Long Island, New York, il 15 febbraio del 56, cresce ad Huntington, che è un comune degli Stati Uniti, al centro di Long Island. È una bambina vispa, piena di idee, la classica bambina che non sta ferma e che crea oggetti inventati da lei. Quando è un adolescente le viene in mente un modo per far sì che gli animali domestici non vengano investiti. È un collare antipulci fluorescente per cani e gatti, in modo che siano ben visibili di notte. Naturalmente è molto giovane, non ha la malizia di brevettare subito l'idea. Così il produttore Arts Mountain, un anno dopo, mette sul mercato un prodotto praticamente uguale al suo, e Joy vedrà la sua stessa idea commercializzata da una nota azienda di accessori per animali. Si fa una promessa: la prossima volta la mia idea diventerà realtà. Intanto studia al liceo, frequenta la Pace University di New York, si laurea nel 78 in Business Administration, gestione aziendale, diciamo. Ha davanti a sé una vita piena di sogni, di opportunità, e proprio durante gli anni dell'università conoscerà un ragazzo che diventa il suo futuro marito, Anthony Miren. Dopo la laurea inizia a fare lavoretti, però quando la famiglia si allarga lei lascia il lavoro perché si dedica ai bambini, che sono diventati tre. Nel frattempo però le cose con Anthony, il marito, non vanno bene. Alla fine dell'89 lei è una donna divorziata, ha tre figli, vive a Smithtown nello stato di New York assieme alla madre, fa la dipendente di una compagnia aerea per la gestione delle prenotazioni dei voli. Insomma, la vita comincia a essere veramente dura. Mamma, guarda che ho trovato. Che cos'è? Come puoi chiedere che cos'è? Il collare per cani che ho inventato al liceo. Mizzi stava per strozzarsi un paio di volte, così ho inventato un collare che si sganciasse in fretta, in modo che il cane non si strozzasse, e l'ho rivestito di nastro rifrangente. In più è antipulci. Magari oggi non fare i tardi al lavoro che ho, se mi avessi fatto avere un brevetto o un avvocato. Joy l'inventrice, inventavi sempre qualcosa, tesoro. Come puoi pretendere che io mi ricordi tutto? Adesso la Hartz ha il brevetto di quel collare. Abbiamo appena ascoltato un piccolo stralcio del film Joy di David Russell, che ha voluto illustrare sul grande schermo l'ascesa di questa donna, a partire proprio dal suo momento più basso, la caduta, quello in cui lei si ammazza di lavoro per riuscire a sfamare la sua famiglia e vede infrangersi i suoi sogni di gloria di fronte a questo collare antipulci e fosforescente che le viene rubato da scaltri affaristi. Insomma, i sogni di gloria, quelli che abbiamo tutti da ragazzi. Mi ricordo che quando ero una ragazza rimanevo a letto pensando: come posso fare? Devo pagare le bollette, ho tre figli piccoli, devo fare soldi in ogni modo possibile. Direi che ho fatto molti salti nel buio, ma non puoi andare troppo lontano se non credi davvero in te stessa. Anche se in difficoltà economiche e separati, Joy e Anthony rimangono comunque vicini dopo il divorzio, rimangono amici, in futuro saranno anche colleghi, sì, perché Anthony, chiamato Tony, è sempre un sostenitore dell'ex moglie. Non ci è dato sapere se, come dire, questa sua voglia di sostenerla sia direttamente proporzionale ai successi commerciali dell'ex moglie, chissà. Il falco e il gabbiano Abbiamo lasciato Joy Mangano alle prese con i suoi tre bambini e con una casa da pulire a Smithtown, una cittadina di 120.000 abitanti dello stato di New York. Perché vi dico una casa da pulire? Perché è proprio mentre pulisce i pavimenti con la scopa, con lo straccio, che inizia intanto a riflettere sulla sua frustrazione. Lei, che era sempre piena di idee, che adesso non ha neanche il tempo di fermarsi a pensare, deve dare una svolta alla sua vita. E allora prende i fogli, prende le matite colorate della figlia e inizia a mettere su carta la sua idea, un'invenzione. Poi si rivolge al padre e alla sua compagna sperando di avere un appoggio, soprattutto un investimento per provare a produrre quell'oggetto che ha inventato, ma che fisicamente non ha ancora prodotto. Il bastone è standard, 135 cm. Il manicotto è collegato alla testa della matassa di cotone. Ora diventa complicato. C'è un gancio poi che collega il manicotto a... non so neanche come chiamarlo. La tazza, che è collegata alla sommità della matassa. Così quando tiri su il manicotto, la testa della matassa si tende in modo che la puoi strizzare senza toccarla con le mani. L'unica cosa che vediamo sono questi disegni a pastello. Non ci capiamo niente. Non sappiamo cosa sia. Cioè la matassa non pende come i capelli? Come delle corde? Pende, ma non sciolta con le estremità libere come capelli. È una striscia continua. Non capisco. Che ci fa lui qui? È il padre dei miei figli e mio amico e si prende cura di me. Insomma, lei non riesce a spiegare bene cosa vuol creare. Alla famiglia naturalmente non sembra convinta. Cioè, di cosa sta parlando? Ora un nome glielo sappiamo dare. Si tratta del mocio, quello straccio che con due semplici gesti riesce a strizzare senza toccarlo, quello che è usato in milioni di case del mondo. Joy gli dà un nome, il Miracle Mop, il mocio miracoloso. E così, dopo il collare antipulci fluorescente, quello che le è stato shippato, ecco che Joy Mangano ha una seconda idea di business. A 34 anni, siamo nel 90, investe i suoi pochi risparmi e se ne fa prestare altri per realizzare i primi modelli della sua nuova scopa, Miracle Mop, il mocio miracoloso. Nell'officina del padre crea i primi prototipi del bastone, a cui collega un lunghissimo filo di cotone super assorbente di 91 metri che poi catturerà lo sporco dei pavimenti senza toccarlo con mano, senza piegarsi continuamente. Insomma, sembra una cosa a vederla oggi abbastanza semplice, però sul mercato non esiste. Il mocio è grande quanto una scopa, ma fa risparmiare molto tempo a tutte le donne come lei, quelle che devono lavorare e anche prendersi cura della casa. Insomma, Joy Mangano è convinta di avere l'idea vincente. E allora prova a proporlo a diverse aziende che si occupano di accessori, tutte rispondono alla stessa cosa: è troppo costoso produrre il mocio e le donne non hanno veramente bisogno di un modo migliore per lavare e asciugare i pavimenti della casa. Ma Joy non la pensa così e va avanti, confeziona la scopa e il secchio, non demorde. Quella sua forza di volontà ha colpito anche l'attrice Jennifer Lawrence, che nel film Joy di Russell impersona proprio lei, la Mangano. Sentiamola. Ciò che mi è piaciuto di Joy è che è veramente di ispirazione. Le hanno detto di no un milione di volte, ma lei aveva questo ardente desiderio e ha sempre creduto in se stessa anche quando nessun altro lo fa, fino a che anche gli altri credono in lei, anche dopo aver ottenuto il successo. Poi io volevo lavorare con David Russell, quindi non appena mi ha chiamata dicendo che avevo un'idea, io ho detto che ci stavo e non mi importava di che cosa si trattasse. Ma non appena ho iniziato ad ascoltare la sua storia e tutte le vicende che sono anche nel film, che onestamente pensi siano troppo irrealistiche e invece sono vere, mi sono convinta. Too unrealistic are mostly based on her life. Ebbene, nella vita l'autostima è fondamentale. Se poi c'è così tanta tenacia, le probabilità di successo si centuplicano. E lei ha quasi dell'incredibile con la sua tenacia. Prende le scope, fa dimostrazioni ovunque, mette per terra un pezzo di pavimento in linoleum e si mette a sostare davanti ai parcheggi dei supermercati e richiama l'attenzione dei clienti potenziali per ora. E l'aiutano le figlie e le amiche. Venite a provare un mocio di nuova concezione! Rappresenta il futuro! No, grazie. Lo volete provare, signore? Che cos'è? È rivoluzionario, signora. Oh, si può strizzare senza sporcarsi le mani. Ah, non ci credo. Andiamo, lo provi! È il futuro! Si strizza da solo, eh? Sì, Ok. Mi piace quest'idea. Sai, io odio toccare lo straccio dopo aver finito di pulire il pavimento del bagno. Penso sempre che faccia schifo. Sì, è vero. Cavolo, arriva davvero in tutti gli angoli dove neanche la spugna arriva. Già. Tutti quegli angoletti dove i miei figli fanno cadere il succo di frutta. Mi piace tanto, lo possiamo comprare? Sta calma, Christy. Oh, è sorprendente. Non lo devo toccare, guarda qua. Oh mio Dio. Sa, sarebbe perfetto se si potesse togliere la frangia e metterla in lavatrice per pulirla come si deve. Sarebbe fantastico. Sì, è vero. Si può fare. Cosa? Dice sul serio. Beh, ma quanto costa? Viene 19,95. No, è troppo. Beh, se non dovrò comprarne altri, non facciamo altro che comprare quelli da 5 dollari. Ciao, tesoro. Ti ricordi Angela e i suoi due fratelli, vero? Sì. Ciao. Mamma, il poliziotto. Signora? Abbiamo infranto la legge. No, la merce è sequestrata. Stiamo, andiamo via, andiamo via. Per ora andiamo la lascio andare con una multa. No. I primi tempi sono duri. Il Miracle Mob è leggero, è maneggevole, è strizzabile, però ancora non decolla. C'è diffidenza sulle grandi novità, è diffidenza, come dire, insita nel genere umano. E lei così vende la sua invenzione porta a porta, partecipa a fiere locali di Long Island, vende qualche pezzo nei piccoli negozi della zona, ma quasi ci siamo. Lei ancora non lo sa, ma la sua vita sta per decollare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la tipica favola americana, la meravigliosa storia di Joy Mangano, una cenerentola dei nostri giorni. Una bambina che da piccola inventa oggetti per dar forma alle sue idee e poi, da donna, alle prese con tre figli e una casa da mantenere, diventa protagonista di una autentica scalata imprenditoriale, una donna fantasiosa che ha creato un impero dal nulla, anzi da un mocio per pavimenti, una donna che deve molto anche al suo nome. Il concetto di joy, cioè gioia, ha così tante sfaccettature. È stata una fortuna chiamarmi così, perché le persone pensavano sempre che io fossi felice. Questo è ciò per cui mi batto, il bellissimo e meraviglioso dono di una vita felice. Non so se bisogna pagare un prezzo per ottenerla, ma la vita è la vita e bisogna attraversare varie fasi che non sono sempre gioiose. Quindi dipende da come si assorbe la parte difficile della vita e cosa ne fai per raggiungere quell'obiettivo che io ho sempre avuto, e cioè di avere quella felicità reale, quella vera felicità interiore. E di certo possiamo dire che Joy Mangano è una donna molto tenace. È stato grazie alla sua creatività, ma soprattutto al suo carattere, che è riuscito a raggiungere il successo. La sua invenzione, il Miracle Mop, il nostro mocio di casa, è stato veramente il suo colpo d'ala, quello che le ha fatto creare un impero economico incredibile, che addirittura è stato protagonista di un film basato sulla sua vita. Mi piaceva il nome Joy. Mi piaceva il fatto che il film potesse essere una riflessione su cosa sono le emozioni in vari momenti della vita. Ed era l'opportunità di raccontare la storia di una donna della working class cresciuta nel garage dove suo padre lavorava. E cosa significa gioia quando cresci, ti sposi, divorzi e quando devi diventare una persona aggressiva per creare un'azienda che diventi azienda di famiglia e per non perdere i sogni d'infanzia. Ogni film per me si basa sui dettagli, il modo in cui la gente vive. Non ci siamo focalizzati sugli effetti speciali, ma sul fascino di queste persone, con un'immersione profonda nelle loro emozioni, nelle loro delusioni e nelle loro ambizioni. Tutto cambia nell'esistenza ambiziosa di Joy quando entra nella sua vita la televisione. Nell'86 un imprenditore con molto intuito, Joseph Siegel, dà vita a un canale televisivo diverso da tutti gli altri, incentrato solo sulla vendita in diretta di prodotti da comprare al telefono. 6 anni più tardi, nel 92, la Mangano riesce a entrare negli uffici di questo canale che si chiama QVC a far comprendere le potenzialità del suo prodotto. Incuriosisce i dirigenti del canale, che sono sempre naturalmente alla ricerca di novità, di prodotti da vendere, e così arriva la svolta. Ecco il colpo d'ala raccontato nel film Joy. Sai cosa significa QVC, Joy? No, non lo so. Qualità, valore, convenienza. Io vendo prodotti convenienti, ma non prodotti da poco. E il tuo mocio è di plastica e ha un aspetto strano. Io non so niente di grafici, né di business, francamente. Ma pulisco ogni giorno la mia casa. E ho fatto questo mocio perché è migliore di qualsiasi altra cosa in circolazione. E alla prima apparizione, il mocio di Joy, presentato da un venditore uomo, non vende molti pezzi. Poi è lei che si espone, va a prestare il suo volto alla televisione, a spiegare la sua invenzione, e tutto cambia. L'aiuta il suo miglior amico Ronnie, che fa il compare, cioè fa la prima telefonata al programma per sciogliere il ghiaccio, e da quel momento Joy si sente meno inibita davanti alle telecamere. In mezzo a quella finta cucina i telefoni cominciano a squillare. State a vedere. Sciroppo di cioccolato? Stringi solo sciroppo, lo sciroppo. Omogenizzato? Se ne versa parecchio a casa mia. Succede spesso a me. Vai, vai, su le mani. E ora, la vera differenza è che non devo toccare questa frangia disgustosa. Non c'è un altro mocio sul mercato che sia in cotone altrettanto assorbente come questo mocio che ho qui. E vi garantisco che non ci saranno reclami, nessuna restituzione. Ho pulito pavimenti per gran parte della mia vita, tutti i giorni. I telefoni non squillano. Non so dirvi quanto questo mocio abbia cambiato la mia vita. I telefoni stanno squillando. E in meno di mezz'ora vengono venduti 18.000 moci. Ed è solo l'inizio, sia per il Miracle Mop, sia per la carriera di Joy Mangano. Ecco una delle sue vere vendite in lingua originale, risalenti al 1996. Hi, I'm Joy Mangano and I invented the Miracle Mop. It's the original cotton self-wringing mop, therefore the most absorbent. It will clean that mess again and again and again. And I'm Jane Rudolph Tracy, host on QVC, where we have sold over 300,000 mops to people all across the country just like you. In fact, let's hear from some of them. I love your mop. It's been a lifesaver. This mop is wonderful. I would tell anybody to buy it. And my 10-year-old daughter loves to mop my floor with it. It really is the miracle mop when even the kids want to get in on. E da quel momento la vita di Joy è un successo dopo l'altro. Miracle Mops entrano nelle case americane, sono circa 5 milioni i moci venduti fino adesso negli Stati Uniti. Crea decine di altri prodotti, tra cui gli appendiabiti antiscivolo, un contenitore di cartone prepiegato per i dolci. Accanto a lei, in un ruolo dirigenziale, anche l'ex marito e amico Tony. E da quei 18.000 ordini in mezz'ora la storia della Mangano diventa quella di un'imprenditrice che si è fatta da sola, che ha creato una sua società, la Ingenious Designs. È diventata un volto noto nelle televendite negli Stati Uniti. Nel 99 ha venduto la sua società rimanendone presidente. Oggi ha un patrimonio stimato di 50 milioni di dollari e con lei lavorano anche i suoi tre figli. Sentiamo Christy e Jackie. Credo che il primo ricordo che ho sia di mia madre, che ci porta nel mondo di Miracle Mop. Lei ci chiedeva di andare al lavoro con lei e di vedere cosa faceva, ed era più un'esperienza magica che un lavoro vero e proprio. Se aveva un'idea, si fermava sulla strada o lungo la spiaggia e doveva finire quello che aveva disegnato. Era sempre nel nostro mondo, faceva sempre qualcosa, non smetteva mai di inventare qualcosa. Abbiamo avuto lei come guida, che ci ha mostrato come si fa. E ora che lavoriamo insieme, ci divertiamo insieme sotto ogni punto di vista e abbiamo sempre un'armonia perfetta. Joy Mangano non sta ferma un attimo neanche ora che potrebbe tranquillamente ritirarsi dal mercato. Ha sotto il suo nome almeno un centinaio di brevetti, ha costruito partnership con numerose celebrità, tra cui la tennista Serena Williams, per pubblicizzare prodotti sul canale di vendite HSN. Per le sue invenzioni ha ricevuto decine di premi e riconoscimenti. Ancora oggi Joy appare regolarmente in TV con le sue invenzioni. What a night! What a night is right! Holy moly! I hope you're having fun with us. This is really where it all starts. Oh, over, yeah. You're probably going to hit the 400 million mark of hangers sold here coming up, yeah, right amazing. Around the corner. Close to 390 million hangers have been sold. La passione per l'imprenditoria, la voglia di fare cose nuove, ha spinto Joy a aprire anche un ristorante, Porto Vivo, nella zona di Long Island a New York. Quando le è stato detto che avrebbero realizzato un film su di lei, è stata felice. Ecco cosa ha detto poco prima dell'uscita della pellicola sul grande schermo. I would think that this film is going to impact many, many women. Personalmente credo che questo film colpirà moltissime donne. Nella vita ci sono continuamente momenti in cui dubitiamo di farcela. Potrebbe essere che ti destreggi tra famiglia, lavoro, amici e tendi a dire non riesco a fare tutto. Ma se ti fermi e ti rendi conto che non sei sola e ci sono altre persone che hanno seguito quel percorso, allora, ecco, spero che questo film dia un messaggio anche ad altre donne, in modo che facciano un altro tentativo, perché credo davvero che possano farcela. And I do believe you can. E così la Cenerentola, costretta a dividersi tra i figli, il lavoro e le bollette e la casa da pulire, proprio in virtù dei problemi che si pone per come pulirla la casa, diventa la regina di un impero. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo volare in alto, e questo è un colpo d'ala coi fiocchi che ha proiettato Joy Mangano nel mondo della grande imprenditoria. E ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che lo porta molto in alto, come il falco e il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina oppure venite nei miei social e nei nostri social, su Facebook, su Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.